ovunque in tutto il mondo, ma Europa compresa, in quei pochi paesi d'Europa, ovunque è stato liberalizzato comunque il servizio taxi, non è vero che si è creata una maggiore concorrenza, ma si è creato un accaparramento di licenze da parte di chi ha maggior disponibilità di capitali e quindi dei veri e propri oligopoli che hanno condizionato il mercato e non lo hanno liberato. E ovunque si è verificato, dati alla mano, è questo che ci devono smontare, ovunque si è verificato un forte incremento delle tariffe. Perché se noi si aumentano a dismisura, esatto, perché se si aumenta a dismisura il numero dei taxi in circolazione o addirittura si liberalizza il numero dei taxi, è evidente che diminuiscono in maniera drastica il numero di corse pro capite che fa ciascun tassista. E quindi uno aumenta la tariffa. Per forza le tariffe. Se le tariffe... Vorrei fare un esempio, a Roma oggi siamo 8.000 taxi, no? Circa, 10 più 10 sì. meno. Se passasse la tesi, e che noi chiaramente non vogliamo, della doppia licenza, no? Come se ci facessero un favore, sì. sarebbero 16.000, diventerebbero. Già la cosa è allucinante perché uno non ha neanche, penso, lontanamente valutato quello che potrebbe essere l'impatto sulla circolazione, sull'ambiente e così via. Ma lasciamo perdere questo, facciamo finta siano problemi che non esistono. Oggi un tassista fa in media 7-8 corse al giorno. Se raddoppiamo i tassi, sopravvive a malapena, riesce sì e no a sopravvivere. Dopodiché se raddoppiamo i tassi, ne farà 4, massimo 5. E dice, non con 4-5 corse sulle tariffe, capisci? Con 4-5 corse deve fare la stesso incasso. In assenza di contributi pubblici. Senta, ma perché non volete neanche questa licenza in più? Cioè, voi su cosa siete disposti ad aprire? Una licenza in più, due licenze in più, 1.000 licenze in più, niente? Allora, innanzitutto noi andremo a chiedere, non a dare, perché dare abbiamo dato come tutti i cittadini italiani, ci abbiamo rimasto solo il sangue. Noi andiamo a chiedere il carburante professionale, come è giusto sia per i camionisti che per gli agricoltori, andiamo a richiedere il riconoscimento delle malattie professionali del nostro mestiere usurante, che è tra i più usuranti del mondo, andiamo a chiedere lo sgravio dell'IVA sui beni strumentali, che siamo l'unica categoria. Ma cioè voi andate lì, no, perché è interessante questa posizione, andate lì in posizione di forza, cioè dite noi vogliamo questo, no? Sì. Non ascoltiamo cosa volete fare voi del governo, vogliamo questo. Noi vogliamo questo, poi se si tratta ragionevolmente di migliorare il servizio e di mettersi seduti per fare una riforma seria del servizio, noi siamo i primi a volerlo. Ci sono anche delle lacune che noi non ci nascondiamo, non è un nostro atteggiamento a priori, perché noi riconosciamo che ci sono delle lacune. Intanto ci aiutassero con leggi più ferre, no? Sì. No, di regolamentare, regole più ferre per isolare quelle poche mele marce che macchiano tutta la categoria. Sa che dicono però Bittarelli? Allora, oggi i titoli dei giornali, non so se li ha già visti, tassisti e orefici guadagnano meno degli operai, questo è il titolo del Corriere della Sera, cioè la media ovviamente, la media, sì, i tassisti 14.000 euro, siete una categoria di evasori fiscali? No, però non si può tutte le volte mistificare la realtà, i giornali dei fesserie ne scrivono tante, giustamente oggi ne avranno scritta una in più, perché non si può fare la media, cioè il tassista chiaramente del paesino di montagna che fa una corsa al giorno, quello denuncerà probabilmente 1.000 euro l'anno e farà il secondo lavoro magari l'agricoltore. Quando si fa le medie degli grande città, quando si fa le medie degli studi di settore, sì, si fa la media, così, cioè che si può fare? Sì, è come quello del pollo, non è così. Allora, quando qui nelle grandi città, che sono queste diciamo che diciamo tengono in piedi tutto quanto il sistema, Roma, Milano, Bologna, Firenze, Palermo e così via, noi i tassisti denunciano dai 24 a 30 mila euro all'anno, a seconda del costo d'acquisto dell'autoveicolo e dei chilometri percorsi. E purtroppo c'è il problema opposto, che molti tassisti non arrivano a incassare 24 mila euro all'anno e comunque li denunciano per evitare rotture di scatole, diciamo. Ma perché non so, sul Corriere.it che c'era quel tassista che ha detto alla Milena Gabanelli evadiamo un po' il fisco, cioè cos'è, una mela marcia? Si sono... Ma no, quello non è una mela marcia, quello è indeficiente, perché parla innanzitutto a titolo personale, io non so se lui ha di questi problemi sia denuncia la finanza, cioè io credo che, ripeto, noi abbiamo il problema opposto come categoria, sicuramente quel collega, che non so se è stato assoldato o meno, non può parlare a nome di tutta quanta la categoria perché non è affatto così. Siamo tartassati dai controlli fiscali. Sai che ho letto una sua intervista al Fatto straordinario, che inizia così: lei con orgoglio ha detto della sua casa 5 miliardi e 10 anni di mutuo, ma è vero che ha preso la casa da Roger Moore? Ma prima di tutto non è la mia, è del 35-70. Ah, del 35-70. Diciamo, sì, perché i giornali, ripeto, siete bravi a volte, noi giornalisti. La sede del 3570. Siamo 3700 soci, con un mutuo in 10 anni paghiamo 10 euro al mese in più sulla quota, se questo è un lusso, e evitiamo di fare di stare in affitto. Una struttura grande come la nostra bisogna anche dei spazi adeguati, con dei parcheggi, eccetera. Abbiamo trovato a suo tempo questo, secondo il nostro punto di vista, a fare, perché era diciamo un fallimento, diciamo, era intestata una società in fallimento. Prima che la banca la mettesse all'asta, siamo riusciti a rilevare la sede del 3570. Senta, per concludere, Bittarelli, ma questa storia che voi minacciate sempre blocchi, ogni tanto si sente facciamo l'inferno, scendiamo, blocchiamo le strade, blocchiamo le città, sa che è nata anche la proposta meno taxi per tutti, c'era contro sciopero al vostro. Ma tutte le volte che lo facessero, pure tutte le volte che hanno fatto queste proposte di contro e meno taxi per tutti, sciopero dei consumatori, abbiamo lavorato di più, non so se sarà stato un caso, quindi a noi non ci interessa più di tanto, noi sappiamo di avere la ragione dalla parte nostra, perché non ci si fa più ad andare avanti, e qui siamo considerati noi la categoria da colpire, non ci sta bene, ma altro che blocchi, a parte che fino adesso i blocchi non abbiamo fatto. Cosa minacciate? Altro che blocchi, cosa vuol dire? Cosa volete? Cosa pensate? Ma secondo lei il popolo affamato che cosa fa? No, me lo dica lei, cosa fa? No, me lo dica lei, che ha studiato più di me. Io no, perché in passato scene di violenza si sono viste. Ma dopo tutta questa violenza non mi è sembrato, e spero che non ce ne sia, però è chiaro, non ci faremo neanche mangiare sopra la testa da nessuno, perché nel piatto nostro già è difficile che ci mangiamo noi, non riusciamo a fatica. Beh, anche dei giorni scorsi qualche insulto c'è stato ai politici, a Palazzo Chigi. Ma insulti, ora mi dispiace, io sono stato, quando quella storia di Cicchito, sono stato il primo io a chiedere scusa a nome della categoria, sono stato il primo io ad andare sotto a Palazzo Chigi dicendo che state facendo, anzi Cicchito era andato lì per farci ottenere l'incontro, tra l'altro con il governo, che non riuscivamo a ottenere, l'hanno insultato, ma non ce l'avevano con lui personalmente. Era il politico, ce l'avevano con un sistema che il non sistema. Condividono, non è possibile, un governo di tutti i professori, di persone che hanno sempre preso 500.000 euro all'anno di stipendio, più tutti i vari benefit, di punto in bianco, senza neanche essere stato votato dagli italiani, va a decidere di ammazzare la categoria dei tassisti. E noi non ce lo facciamo ammazzare, mi dispiace, ma faremo tutto il possibile per salvaguardare le nostre ragioni. Va bene, io intanto la ringrazio, Bittarelli. Noi continuiamo a parlare di liberalizzazione. Tra poco ci sarà Paolo Ferrero, segretario di Fondazione Comunista, ci sarà Carlo Lottieri dell'Istituto Bruno Leoni. Insomma, siamo partiti dai tassisti, ma non solo. Liberalizzazione sì o no? Avete sentito? Non ci faremo certo mangiare in testa e non ci faremo ammazzare come categoria dai professori. Così Loreno Bittarelli dei tassisti del 3570 a Roma. 24 mattino. Eccoci qua allora, alle 8:37 minuti, dopo l'agguerrito Loreno Bittarelli, taxi e tassisti che oggi incontreranno Monti sul fronte liberalizzazione. Continuiamo a parlarne. Voglio salutare il segretario nazionale di Fondazione Comunista Paolo Ferrero. Buongiorno e ben ritrovato, Ferrero. Buongiorno, buongiorno. Saluto anche Carlo Lottieri, cofondatore dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno, professor Lottieri, eccoci qua. Buongiorno. Senta, sembra la parolina magica, liberalizzazione, non si parla d'altro, no? Oggi Belpietro scrive su Libero, è come spread. Prima tutti sulla bocca hanno spread, adesso tutti liberalizzazioni. Ma poi che diavolo significa? Cioè, se la traduciamo, come dire, rendere il mercato più libero in tanti settori, non so, gas, trasporti, anche taxi e quindi trasporti, in modo che i consumatori paghino meno, questo di fatto lo possiamo tradurre così, questo è l'obiettivo di Monti, professor Lottieri? Ma l'obiettivo di Monti non so bene quale sia, in teoria dovrebbe essere così, liberalizzare vorrebbe dire restituire libertà di iniziativa ai singoli, ai gruppi, togliere i privilegi. Prima ad esempio si parlava dei taxi, no? Non si è detto, tra le altre cose, che esiste tutta una categoria di persone che sono coloro che si occupano di noleggio con conducente, sì, che sono i paria della situazione. Che ci scrivono sempre, ma li presto li chiameremo, dice noi non abbiamo voce, noi non... per ora i tassisti hanno la voce perché hanno il megafono più che altro, sono molto rumorosi. Per le farmacie, no? Abbiamo le farmacie e le parafarmacie, c'è una società di status, ci sono gli uomini di serie A, gli uomini di serie B. L'idea è che si dia alla persona la libertà di lavorare senza trovare sulla strada un poliziotto, un burocrate che impedisce. E al consumatore anche la libertà di poter scegliere, quindi con tariffe più basse. Paolo Ferrero, perché l'ho sentita dire nei giorni scorsi, altro che liberalizzazioni, ci vorrebbe più Stato? Ci vorrebbe un intervento pubblico, ma per una ragione molto semplice, che la crisi economica in cui siamo precipitati è dovuta al fatto che in questi anni si è andati avanti nella deregulation, quella che adesso veniva invocata esattamente dal professor Lottieri. E invece io penso che la deregulation porta alla crisi e porta al disastro economico in cui siamo, e che il problema vero che abbiamo davanti è di rimettere regole, intanto per mettere la mordacchia al capitalismo finanziario, ma anche dentro i settori di lavoro. In più, secondo me, sulla vicenda delle liberalizzazioni di cui stiamo discutendo c'è una profondissima mistificazione, perché si parla quasi solo di farmacie, di taxi, di notai. Chi non è d'accordo a ridurre le tariffe dei notai? Tutti. Io personalmente penso che il lavoro dei notai lo dovrebbero fare gli uffici comunali, dove si dovrebbe in modo pubblico andare a registrare gli atti, e non si capisce perché deve essere un residuo medievale. Ma il punto è il notaio che ha vinto il concorso pubblico, che facciamo? Vabbè, però insomma, questa è una liberalizzazione spinta, Ferrero, cioè cancelliamo la categoria dei notai. Ma in questo senso sì, nel senso che secondo me dovrebbe essere una funzione fatta direttamente dal pubblico, quella lì. Ma lo dico per dire che si discute molto di notai, che sono qualche migliaia di persone, ma in realtà il clou del decreto, da cosa si capisce, non è quello, perché il clou del decreto è la completa liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Addirittura si obbligano i comuni a farlo e si reputano i comuni più virtuosi sostanzialmente se privatizzano. Noi abbiamo fatto un referendum qualche mese fa che prevedeva, dove gli italiani hanno votato che l'acqua deve rimanere pubblica. In questo decreto si stravolge e si va contro la volontà della maggioranza degli italiani facendo un fatto illegale. Oppure, altra chicca, si prosegue e si spinge sulla liberalizzazione delle ferrovie, e ad esempio si prevede che venga abolito il contratto nazionale sulle ferrovie. Che cos'è questo? È semplicemente il dire che Montezemolo, con i suoi treni ad alta velocità, potrà applicare il contratto che vuole e non sarà obbligato. E la concorrenza dove avverrà? Ma guardi, vede, avverrà sul costo del lavoro, cioè avverrà pagando meno la gente. La posizione diversa, per esempio, oggi Carlo Stagnaro, che è anche lui dell'Istituto Bruno Leoni, intervistato a Libero, dice proprio manca invece una vera liberalizzazione nei servizi del trasporto, anche del trasporto ferroviario, dei trasporti, dei servizi pubblici locali, quelli che lei citava. Però vorrei, Lottieri, la questione del parlare di tassisti o di notai o di farmacie, di parafarmacie, è una discussione effettivamente miope, nel senso che non vede poi qual è il tema più grande, che è quello, non so, per esempio si ritorna oggi la discussione sulla liberalizzazione del mercato dell'energia, quindi del gas, oppure quello appunto dei servizi pubblici. Rispondo anche a Ferrero, che dice che bisogna mettere la mordacchia al mercato finanziario, al sistema finanziario capitalista. Ma in parte concordo, nel senso che non mi sembra che quello dei taxi sia il primo problema. Altra cosa è il problema dei notai, invece, ad esempio, perché i notai rappresentano un onere veramente pesantissimo per la famiglia ogni volta che si acquista una casa, un'automobile, eccetera. Si parla del 15% grosso modo, no? Di questo onere tra tassazione, costo del notarile, eccetera. Però è vero che, ad esempio, non si parla mai delle banche, non si parla mai di liberalizzare le banche. Parafrasando Brecht, si potrebbe dire che in Italia è più facile rapinare una banca che aprirne una, insomma. E non si parla mai nel senso vero delle poste, perché le cose di cui si parla sono in realtà come dire, un cambiare tutto finché non cambi nulla, o delle ferrovie. È chiaro che lì c'è la partita più grossa, ed è chiaro che lì c'è una resistenza fortissima da parte ovviamente dei grandi boiardi di Stato, che non vogliono mollare il controllo su certi settori, e poi tutta una certa resistenza sindacale a scapito comunque della collettività, per cui appunto non si vuole liberalizzare il lavoro. È vero, come diceva Ferrero, è chiaro che liberalizzare vorrebbe dire anche aprire un discorso diverso sui redditi, ma questo in un paese, come dire, in cui il 9-9% delle persone non ha lavoro. Questo va quello che diceva Ferrero, però è proprio anche un approccio di politica economica diverso, immagino, dal suo, quando dice Ferrero che la deregulation è quella che ha portato alla situazione di crisi attuale. In un paese con oltre 200.000 leggi, a me fa un po' sorridere che si parli di deregulation per l'Italia. Su questo Ferrero che ha da dire? Però su questo la deregulation si fa attraverso le leggi anche. Le faccio un esempio. Sul fisco ci sono circa 10.000 leggi. Con 4 leggi si fanno pagare il 96% delle imposte, cioè quasi la totalità. Le altre 9.996, ponendo che siano 10.000 secche, servono solo ad evadere, ad eludere, ad aggirare, a permettere ai commercialisti di trovare il trucco per non far pagare a quello che c'ha la barca tutte le tasse che deve pagare. Allora, non è che tante leggi sono tante regole, tante leggi sono anche in modo italico il modo di truffare le regole, per cui in realtà il problema vero è che qua in questi 20 anni gli stati hanno mollato il potere non all'Europa ma ai mercati finanziari, e adesso i mercati finanziari si stanno demolendo le democrazie e l'economia reale. In questo senso dico che ci vogliono delle regole in cui, ad esempio, per me una delle priorità in Italia non è solo che chiunque vuole si possa aprire una banca, ma ad esempio ci vorrebbe una banca pubblica che tratti il denaro non per farci profitto sopra, ma per far funzionare l'economia, e che ad esempio permetta a tutti quei industriali piccoli e medi, a quei negozianti, a quegli artigiani, di avere il credito a cui oggi le banche private, che oggi le banche private non danno più. Ma questo che c'entra col tema liberalizzazione? Cioè... No, lo dicevo perché lei citava giustamente, dicendoci anche un'impostazione di politica economica diversa, e io infatti penso che la cosa che manca oggi è un intervento pubblico, anche perché questo varrebbe anche sui prezzi. Dalle cose che ho visto io, quando si liberalizza non è assolutamente dimostrato che ci sia una riduzione dei prezzi. Ma perché su questo? Mentre quando c'erano cioè... le tariffe, aspetti, quando c'erano le tariffe amministrate, quelle erano obbligatorie. Le assicurazioni hanno liberalizzato, i prezzi sono aumentati, invece quando c'era fissato in qualche modo dal pubblico, dallo Stato, una tariffa, questa era più bassa. Allora io sono più per discutere in modo democratico su quanto deve costare l'atto di una casa. E che non può essere il 15%, deve essere 50 euro, 80 euro, cioè quello che non una roba in cui si liberalizza, e in realtà l'unica cosa che avverrà sarà che i taxisti, invece che essere degli artigiani come sono oggi, entrerebbero le grandi imprese e metterebbero dentro gente a lavorare in forma precaria e sottopagata. E avanti così. Cioè ma Ferrero sta con i tassisti. No, la stessa teoria che c'è detto di Bettarelli. Però si fermi un attimo, però devo dare le informazioni sul traffico. Interessante il punto da cui ripartiremo. Per Ferrero, a liberalizzare non porta a una riduzione al consumatore poi delle tariffe, che poi dovrebbe essere uno degli scopi principali delle liberalizzazioni. Allora, professor Lottieri, che replica? Ferrero dice non si abbassano poi le tariffe con le liberalizzazioni, le assicurazioni dice non hanno abbassato, i tassisti, succederebbe quello che dicono i tassisti, arrivano le imprese, fanno cumulo di licenze, mettono a lavorare le persone, e in realtà quindi sì, ci sono le grandi concentrazioni di licenze, è davvero così? Oppure se liberalizziamo in farmacia la vendita dei farmaci, il prezzo diminuisce, come dice Catricalà? Ma se avesse vero, se fosse vero quello che dice l'onorevole Ferrero, dovrebbe ottenere il premio Nobel per l'economia, perché sarebbe una scoperta sconvolgente quanto la concorrenza fa aumentare i prezzi, secondo questa logica. In realtà tutti noi vediamo, ad esempio, il trasporto aereo, come oggi si possa volare con molto meno rispetto a quando c'era il monopolista di Stato e solo quello, perché il problema poi è questo: non solo Ferrero è contro liberalizzazioni, ma vuole, come dire, statizzare anche ogni settore. E cosa succede in quel caso? Che può darsi che qualche volta con le tariffe pubbliche si abbia anche dei costi inferiori per il consumatore, ma a scapito di chi? A scapito di chi non utilizza quel servizio, quindi a scapito dell'intera collettività e a scapito alla fine del paese, perché abbiamo alle nostre spalle una storia di inefficienze postali, inefficienze ferroviarie, inefficienze bancarie, così, perché sono tutte statali, sono tutte legate all'intervento pubblico. Su questo effettivamente la teoria, Ferrero, se mi permette, è un po' azzardata, cioè lei vorrebbe tornare a una compagnia di Stato aerea, invece che alla concorrenza. Che io non ho detto questo. Non ho fatto un discorso in linea di principio, le ho segnalato dei casi diversi, ad esempio le ho detto sui notai, secondo me è una funzione pubblica in cui lo Stato deve fissare delle tariffe, devono essere molto più basse. Ma sui notai ce l'ha con i notai, questo l'abbiamo capito. No, ma adesso uso come figura, come ma perché? Perché sono, perché sono dei ricconi? Ce l'ha con i notai. Ma indubbiamente il reddito dei notai è molto alto. E secondo me è ingiustificata questa distribuzione di ricchezza in questo modo, quando la funzione è una funzione di registrazione, di garanzia, che è una classica funzione pubblica che svolgono tantissimi funzionari pubblici normalmente nel loro lavoro. Quindi quella è una cosa. Sul caso dei taxi, prendiamo il taxi. Grosso modo il numero di taxi che c'è in Italia è simile come media sugli abitanti a quelli degli altri paesi europei, grosso modo. Sì. È del tutto evidente che talvolta mancano i taxi o si ritiene che la tariffa sia troppo alta, per quanto grosso modo anche quelle sono in linea. Ma il punto, essendo che negli anni scorsi qualcosa si è fatto, perché ad esempio a Roma si sono aumentate le licenze, a Milano si sono aumentate le licenze, a me pare che il problema che c'è oggi è che i taxi rimangono sovente ingorgati nel traffico, perché la velocità commerciale si è di 12-13 km all'ora. Beh, questo è il problema del traffico delle grandi città. Sì, il problema allora è farli correre. Le città possono fare le corsie preferenziali che il trasporto pubblico, sia quello collettivo sia quello individuale, taxi, autobus e tram e quant'altro, funzionino a una velocità più alta? Si migliorasse di un paio di chilometri, non allora, ci sarebbe bisogno, dice, sarebbe di come licenze. Aumentare del 15% il numero di taxi e ridurrebbe le tariffe. Allora il punto è che qui, perché invece io sono contrario alla logica delle liberalizzazioni, perché è evidente che la cosa che succede è che entrano le grandi imprese, diciamo così, comprano licenze. Ad esempio New York è così, diventano grandi compagnie che poi che cosa fanno? Fanno cartello. Perché il quindi punto lei dice invece si ottiene il risultato opposto. No, ma su questo è stato chiaro. Mi lasci dare due ascoltatori. Francesco da Torino, buongiorno. Francesco. Buongiorno. Dica la sua. Grazie per l'opportunità che mi date. Niente, io volevo soltanto dire che si sta facendo molto fumo negli occhi col discorso della liberalizzazione, anche perché io direttamente sono stato pizzicato due volte. Adesso le spiego come. Nell'85 mia moglie comprò un negozio di parrucchiera, allora a costo 150 milioni, ci siamo fatti debiti, sì, perché questa era l'attività che devono farlo, dopo hanno liberalizzato le licenze del commercio e si è deprezzata, si è svalutata. Quindi non capisco i taxi come mai dicono. Infatti dicono così, il nostro TFR, come lo chiamano loro, la licenza pagata, verrebbe a svalutarsi. E infatti il TFR di mia moglie è già stato mangiato già tempo fa. Comunque sia, visto che in Italia c'è la legge del taglione, quando è tempo e ora, Siccome hanno svalutato quella di parrucchiera di mia moglie, ora paghino i taxi, va bene. No, pagare adesso non dico, è un po' come il discorso delle pensioni. La legge del taglione, dice lei. No, è certo, la legge del taglione, io ho cominciato i miei contributi nel 70, ho fatto un contratto con lo Stato in un certo modo, adesso mi ritrovo nel 2012 che questo contratto non è più valido e mi devo. Vabbè, si deve rivendicare su qualcuno, Francesco. Mi lasci concludere con Lottieri. Lottieri, ce la farà Monti di fronte a questa montagna? Perché c'ha le mezze professioni contro e poi anche va interi settori in protesta. E poi probabilmente non ha nemmeno un chiaro disegno, questa è la sensazione. E come? Che mancano due giorni a questo varo in Consiglio dei Ministri pare questo decreto legge che liberalizza mezza Italia. Sì, ma in qualche caso mi sembra in questo senso ragione Ferrero che voglia riregolare a favore di questo e di quello, perché la regolamentazione, diceva bene prima l'onorevole Ferrero, che sono d'accordo, è sempre a favore di questo o quel gruppo, e per questo che bisognerebbe liberalizzare, cioè togliere le regole per mettere un vero gioco di mercato. Invece mi sembra che stia consultando questo, quello e quell'altro, alla fine, come dire, la montagna partorirà un topolino e sarà sempre nell'interesse dei grossi gruppi di interesse costituiti. Questo staremo a vedere. Intanto io vi ringrazio Paolo Ferrero, segretario nazionale di Fondazione Comunista, e Carlo Lottieri, cofondatore dell'Istituto Bruno Leoni. Ringraziamenti a tutti, anche Alessandro Longoni, redazione, insieme a Elisabetta Fusconi, Viola Bottoni e il nostro alpino Peter Bescapè in regia, l'alpino con la penna nera. Allora noi ci troviamo, ricordando che andate su 24 Mattino, su Facebook, e lì ci trovate. Ci troviamo domattina alle 7:20. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante. Tutti i parlamentari stanno 13 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro.